Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto e soprattutto buonasera da Agostino Spolaore e anche da Maurizio Calzavara, un po'... Sì, buonasera, con poca voce, stasera parlerai un po' più tardi, vero? No, parlerai anche tu. Allora, questa è una serata particolarissima, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la nostra emittente, perché avremo in studio una cantante jazz. Però prima di parlare di lei, volevo darvi alcune informazioni. Allora, questa, ripeto, è Blu Radio Veneto, abbiamo un sito dove potete trovare anche la recensione in merito a questa grande, grandissima voce, e non solamente lei, ma anche altre notizie. Il sito è www.bluradioveneto.it. Il nostro numero telefonico in studio, se ci volete raggiungere, è lo 049 875 6423. Se invece volete chiamarci o mandarci un messaggio, meglio mandare un sms, il nostro numero di cellulare è il 346 23 20 033. Ci potete ascoltare anche in streaming audio collegandovi nel nostro sito. Lì c'è una scritta con appunto scritto streaming, sotto c'è una freccia sinistra nera, cliccate lì e potete ascoltare la trasmissione in diretta. E inoltre siamo anche collegati in streaming video, quindi potete vedere lei e lui che canteranno e suoneranno questa sera fino alle 22:30, e questa è la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera. Abbiamo l'onore, siamo felicissimi, siamo orgogliosi di presentare una delle più belle voci della musica jazz italiana, e non solo, si chiama Eva Simontacchi. Ciao Eva. Ciao. Avvicinati un pochino. Avvicino, sì. Buonasera Eva, come stai, bene? Sì, benone, grazie. Padova, come ti è sembrata, visto che l'hai visitata assieme ad Agostino oggi? Bellissima, bagnata anche Padova, come Milano, però meravigliosa, meravigliosa. Ho visto dei posti bellissimi e poi sono stata anche alla Basilica e insomma è stato molto bello. Salutiamo anche Daniele Bonadei, nostro chitarrista. Ti definisci crossover, un po' rockettaro, insomma. Sì, beh, sicuramente. Ciao Maurizio, ciao Agostino. Ciao Daniele. Sono un chitarrista che viene dal rock, nasce con il rock, però prosegue poi con il blues. Sta cercando, dico sempre che da grande farò il chitarrista jazz, però da grande. Mi piace il country, mi piace il blues. Facciamo questa cosa insieme, particolare con Eva. Certo, è una cosa molto bella, scoprirete, è una cosa molto bella e interessante. E poi ci siamo regalati un'altra voce locale famosissima in tutto il mondo. Lei mi diceva prima che ci siamo parlati, ha suonato anche per Schumacher, pensa un po'. Abbiamo Susi dal Gesso. Ciao Susi. Buonasera a tutti, ma non dovevate presentarmi, ero infiltrata qui. Vabbè, sei una cara amica. Nascosta dietro le telecamere, non si doveva dire niente. Abbiamo un parterre eccezionale questa sera come voci e come chitarra. Allora, Eva. Sì. Chi è Eva Simontacchi? Oh mamma mia, sono io, non so cosa dire, sono il mio percorso, io non, ci sono tante cose da dire sempre su una persona, no? E non è solo musica, è tanta musica, ma non è solo musica, c'è tanto, però diciamo che... Parto col jazz e sono jazzista. Ecco, ho lavorato per tanti anni in big band, per cui quella è stata la mia formazione. Poi sono passata a situazioni più libere di quintetto, trio, eccetera. Il jazz mi piace per la libertà espressiva che mi regala, perché posso creare ogni volta, come dire, un brano nuovo pur lavorando sullo stesso standard, per cui ogni volta posso eseguirlo diversamente, anche arrangiarlo diversamente, e questo è quello che mi piace del jazz moltissimo. Per cercare qualche informazione ho cercato nel tuo sito, ci sono una marea di informazioni, cioè un sacco di notizie, veramente hai fatto tante cose, beh, tantissime cose. Essendo anche docente. Esattamente. Sono docente di tecnica vocale e poi tengo laboratori di improvvisazione jazz e di lavoro sugli standard, per cui di apprendimento degli standard, scat labs, per cui imparare a improvvisare con lo scat, E poi tengo laboratori di comportamento scenico, essendo madrelingua americana tengo delle classi di dizione americana anche nel canto. Insomma, sono tante le cose che faccio. Sì, insegno, ho un sestetto vocale con cui facciamo gospel, ma non solo gospel, cantiamo anche pezzi pop, R&B, soul, armonizzati a quattro voci. Insomma, è un bel progetto anche quello. E poi hai detto una frase molto significativa: non potrei cantare testi che non sento e che non mi assomigliano. Sì, sì, perché comunque, essendo madrelingua inglese ma americana, io capisco tutto quello che canto, no? E come in italiano non canterei mai un testo che non sento mio, perché lo sentirei falso, lo sentirei fasullo, oppure una cosa in cui non credo. Non direi delle parole che non credo. In effetti devo dire che questa è una piccola curiosità: nel disco Pure Ecstasy che ho registrato con Attilio Zanchi, Roberto Cipelli e Gianni Cazzola alla batteria, poi special guest Hendrickson Mena, praticamente gli arrangiamenti li aveva preparati Roberto Cipelli, sono bellissimi. Ho cantato In Summer, che è Estate, di Bruno Martino. Arrivati in fondo, lui mi ha detto: devi dire odio l'estate. E io ho detto: certo. No, io la amo da morire l'estate, io la adoro, non è vero che la odio. Insomma, è stata l'unica volta che sono stata, cioè proprio mi ha detto: no, lo devi dire. Insomma, ho inserito questo odio l'estate, no? Però che fatica, ragazzi, veramente ho fatto fatica, perché l'estate la amo. La amo tantissimo, per cui poi insomma, io sono nata in estate, proprio il 21 giugno, che è il solstizio d'estate. Per me l'estate è speciale, poi è calda. Sì, è vero, da calore. Diciamo, certo. Che mi piace anche la pioggia e il freddo, perché fa parte però così, tu della sei calorosa. Varietà, no? Però insomma l'estate la adoro. La facciamo ascoltare questa canzone, cosa sì. Dici? In Summer, allora. In Summer. Summer, I miss you more than any other season. My mind has lost all thought of rhyme or reason. Without you, it's like winter in my heart. In summer, the memories of things we did together are stronger than the trials we had to weather. I can't believe that you and I would part. It's the end of life's daydream, like plucking all the petals from the roses, like bearing all the secrets love discloses, like stopping songs of birds before they start. And once again I feel the old desire, as you return to set my soul on fire. Without you, it's like winter in my heart. like stopping. Songs of birds before they start. In summer, when once again I feel the old desire, as you return to set my soul on fire. Without you, it's like winter in my heart. Odio l'estate. Odio l'estate. Blu Radio Sera. È una serata, dicevo prima, folle, meravigliosa, dolcissima. Questa è la voce di Eva Simontacchi in questa summer, questa estate. Che dolce, che languidità, Eva. Posso dire una cosa? Dimmi. Amo l'estate. Ecco, almeno non ho detto una bugia in diretta radiofonica, perché l'unica che ho detto in vita mia è stata su questo disco, che ho detto odio l'estate, ma sono stata un po' costretta, ecco, però la verità è che l'amo molto. Ma come mai questa scelta di questa canzone, così? Ti piaceva? Perché la adoro, sì, e poi comunque il testo inglese è un pochino diverso dal testo in italiano, e comunque ci sono vari testi inglesi per questo... In summer, perché per esempio Shirley Horn canta un altro testo, e la versione di Shirley Horn è da non so quanti Grammy abbia vinto di In Summer, e veramente dico a chi ascolta, e lo dico anche a voi, di ascoltare la versione di Shirley Horn with strings. Ha fatto un disco con gli archi, eccetera, ma è una cosa spaziale. Ecco, la sua estate, secondo me, è la versione in assoluto più bella che esista al mondo. Benissimo. Quindi praticamente ha toccato il massimo. Secondo me sì. Poi lei è una grandissima interprete. Come direbbero gli americani, è una storyteller. Esatto. Cioè è proprio ti fa entrare nella storia e ti fa vivere delle grosse emozioni, pur cantando proprio con un velo di voce, oppure con una voce leggera, senza, ma veramente con tantissima intenzione, tantissima anima. A proposito dell'arrangiamento, hai avuto l'idea anche te di questo tipo di arrangiamento? Ma devo dire la verità che io ho chiesto a Roberto Cipelli di occuparsi degli arrangiamenti, e quando me li ha fatti sentire... me ne sono innamorata, perché ha veramente creato delle atmosfere, magari prima di anche nel brano, per esempio, There is no greater love, scusate, avevo un vuoto mentale tremendo. There is no greater love, che è stata arrangiata in maniera molto molto particolare, e a me è piaciuto moltissimo. Io diciamo che non ci ho messo parola, come ho sentito gli arrangiamenti, così mi sono piaciuti. Però diciamo che quando esco in trio, perché adesso soprattutto in questo periodo si esce in trio, non capitano di rado le serate in cui veniamo chiamati in quintetto, purtroppo, ahimè. Però la situazione è quella che è, e ormai si viaggia in duo, in trio, per cui se esco in trio, pianoforte, contrabbasso e voce, ovviamente, poi a me piace molto arrangiare i pezzi, nel senso ho tante idee e addirittura a volte li arrangio in maniera diversa, di serata in serata, oppure insomma c'era talmente tanto affiatamento con i musicisti che a volte cambiavo l'arrangiamento al momento, per cui facevo segno, loro capivano immediatamente, facevo fare dei tappeti addirittura a Roberto Mattei con l'archetto sul contrabbasso, e magari leggevo tre righe di una poesia di Neruda o di qualche altro autore che avevano un collegamento col testo che sarei andata a cantare dopo. E insomma, mi piace fare queste cose perché non mi va di ripetere una canzone 30 volte sempre nella stessa maniera, non ce la faccio, ho bisogno tutte le volte di metterci qualcosa di nuovo, di essere creativa, di... Anche per personalizzarla un pochino. Sì, ma non lo faccio, come dire, pensando, ragionando, lo faccio perché è una mia esigenza, mi piace esplorare... E poi se ogni volta la faccio in maniera un pochino diversa, per me diventa nuova e ci metto anche più emozioni, cioè mi emoziono di più, creo, in quel momento sto creando qualcosa, ma anche i musicisti lo stanno facendo, per cui diventa una cosa molto bella. Basta uno sguardo, i musicisti capiscono subito. Eh sì, a volte, beh, però ormai mi conoscono, nel senso che a volte fermo proprio il tempo, cioè a volte parto libera col pianoforte, poi entra il tempo, io faccio capire con la voce che deve entrare il tempo, i musicisti entrano precisi a tempo e poi magari faccio segno, zitti tutti, e poi magari nella B del brano, perché nel jazz si parla di strutture che hanno una A, B, A, oppure insomma strutture anche diverse dalla A, B, A, ma insomma la B sarebbe quello che viene chiamato ritornello nelle canzoni, no? Ecco, magari sulla B li fermo e basta, l'apro la B, per cui la faccio senza tempo, i musicisti mi e poi finita la B, pac, ritorno a tempo e insomma mi piace fare queste cose perché comunque secondo me, a parte che mantengono sveglia la mia attenzione e la mia creatività, ma anche il pubblico che ascolta, insomma, rimane attento quando succede una cosa del genere. Non c'è lo stesso ritmo che continua, lo stesso tono di voce. Cioè, ci sono dei cambiamenti nell'esecuzione del pezzo e questo rende il pezzo, secondo me, più interessante. Certo, tu praticamente preavvisi qualche secondo prima i musicisti. Non sai come Bob Dylan, che non preavvisa per niente i musicisti, va sul palco e tac, comincia a suonare quello che vuole lui. Ho capito. Assolutamente. Devi sapere, Maurizio, dimmi, che il jazz è l'unico stile dove è il cantante che dà il counting del tempo. Ah, vedi, questo non lo sapevo. È l'unico genere e quindi ha la capacità, una grande diva, perché io la chiamo diva. Ma chi è? Chi è tu, amore mio. Scusi, per favore. No, guarda, allora, è diva in tutti i sensi, nel senso che è una donna di classe, una grandissima artista, una persona sensibile, è una grande docente, una grande collega e una grande amica. E quindi quello che vi ho spiegato prima, poi hai visto che le movenze con cui interagiva con, certo, l'espressione vocale. Ecco, questa è Eva. Prima le avete chiesto chi è Eva. Questa è Eva. E io sottolineo quello che ha detto Susi. Io ti conosco da un po', ci sentiamo spesso al telefono, ma sei quello che ha detto lei. Posso? Sì, sì, facciamo ascoltare. Bene. Avanti a tutti, scusatemi, di solito non bevo dalla bottiglia. Io direi di fare ascoltare... Di nascosto sì, ma no, vabbè, in diretta. Eva, facciamo ascoltare la canzone che dà il titolo al tuo disco e poi ci fai qualcosa dal vivo. Sì. Va bene, allora la title track, come si dice, come dice, piace dire a Maurizio. Sì, una volta si diceva così, si dice sì? Ancora. Sì, sì, cultura, sì. Vero? Ok, perfetto. Makes me feel living's worth now my face, your lips close to mine. When I feel you, I'm in ecstasy. Yes, my heart is keeping a beat. When you're kissing my lips, your desires burn in my skin. Come and dream with me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, una cosa devo chiederti su questo pezzo. Sì. Innanzitutto, perché come title track l'hai messo come posto numero uno? E un'altra cosa, la colorazione della tromba, che è fondamentale. Allora, che non è detto, ecco, che sempre La tracklist l'ho fatta io. L'hai fatta te, esattamente. L'ho fatta io e ho scelto io i pezzi, diciamo uno dietro l'altro, quali mettere eccetera, e l'ho fatto proprio così di getto, e anche ai musicisti è piaciuta molto la mia scelta. Pure Ecstasy è stato il brano che ho scelto di mettere per primo, perché a me è piaciuto moltissimo. L'ha scritto, le musiche sono di Roberto Cipelli, che io trovo geniale. Quando scrive la musica e arrangia, secondo me ha un gusto meraviglioso, e sa creare delle atmosfere bellissime. E questo brano praticamente io l'ho ascoltato tante volte prima di mettere i testi, perché volevo entrare nel, cioè riuscire a capire che cosa mi trasmetteva, no? Per cui c'è questa parte iniziale ritmata che io trovo in un certo senso sensuale, forte, poi dopo diventa dolcissimo. Poi è un brano particolare, perché uno ascoltandolo inizialmente ha l'impressione che si tratti di un quattro quarti, pam pam pararara e rarara, pam pam pam pam, ok? Ho capito. Sembra un quattro quarti, è un tre quarti. Io vi dico la verità, è un brano che a cui ho messo i testi, però, e poi sono andata subito in studio di incisione, no? Io vi dico la verità, sulla prima frase uscita da quel, diciamo così, da quel pedale, no? Facevo fatica a entrare nel tre quarti, perché mi sembrava di passare da un quattro quarti a un tre quarti, invece in realtà era in tre quarti anche prima, solo che non dà questa impressione. Niente, comunque passa da un mood a un altro più dolce, per cui l'ho ascoltato bene e ho scritto dei testi che si riferiscono ha una sensazione, diciamo, all'amore, no? Per cui qui si parla di amore tra due persone, le sensazioni che si ricevono, e per cui nella parte dove c'è questa maggior passionalità ho scritto dei testi un pochino più forti, e poi insomma sono diventati più dolci, ecco. Questa è l'idea. E l'ho messo come title track perché, a parte che mi piaceva tantissimo la musica di questo brano, ma c'è anche da dire che mi piaceva anche il titolo. Ah, ok, perfetto. Io sono curioso, Eva. Sì. Io so che tu insegni canto. Sì. Che rapporto hai con i tuoi, diciamo, allievi? Ma io posso parlare del rapporto che io ho con loro, poi bisognerebbe chiedere a loro il rapporto che hanno con me. Diciamo che il rapporto che ho con loro a me dà tantissimo. Mi piace molto insegnare, mi piace moltissimo aiutare, dare una mano. Insomma, diciamo che mi reputo come un cartello indicatore, oh, no? Posso segnare una strada, aiutare, dare una mano, però alla fine è una collaborazione, perché loro devono lavorare e io anch'io, certo. Anche perché poi a volte bisogna sperimentare, sì, con gli allievi, perché una cosa che va bene con una persona non va bene con un'altra, devi andare, per cui è un lavoro che implica anche un lavoro psicologico, un lavoro insomma implica tante cose, non implica solo la tecnica, la teoria, certo, il solfeggio, cioè implica tantissime cose. Giovanna ha detto giusto la Eva? Buonasera a tutti, intanto io con questa occasione saluto Eva, sicuramente mi avrà riconosciuto, forse, credo e spero. E niente, io non posso che confermare la tua testimonianza, scusa, perché Giovanna è una grandissima persona, una grandissima cantante e una grandissima insegnante di canto, cioè noi siamo felicissimi che lei ci possa insegnare. Mamma mia, è una tua allieva lei. Purtroppo io ho fatto poche lezioni ancora con Eva, ma spero vivamente di farne altre, perché mi sono trovata benissimo, è davvero in gamba, è una grandissima professionista. Ma che sorpresa! Ciao Giovanna! È colpa mia, è colpa mia! Ah, è colpa tua, Agostino. Allora mi hai fatto una domanda trabocchetto, sì, sapendo che c'era chi ascoltava. Allora vogliamo sentire la risposta in diretta telefonica. Esatto, Giovanna, esatto. Rispondi, ti prego. Sì, io... Questa era Susi dal Gesso, non ero io. No, qui sì, prima che si confondano le voci. No, io porto la testimonianza per quel che mi riguarda. Eva è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, quindi si va sul sicuro con lei. Grazie, grazie mille Giovanna. Sì, per così è stata poco. Una sorpresa. Uno poi deve dirle le verità, no? Quindi quando c'è da portare avanti una persona che fa del bene è sempre una cosa positiva. Grazie. Ecco. È diventata tutta rossa, sai Giovanna? Anche nel web lo vedranno. Allora, adesso la facciamo arrossire un po' di più, Agostino, se mi consenti. Sì, sì, certo che perché sì. Perché io so che Eva, c'è una frase che lei ha detto: non potrei mai cantare testi che non sento e che non mi somigliano. Ora, Eva è una bellissima donna, tu puoi testimoniarlo, certo, con me come chiunque altro. Anche quindi, tu. Ecco. Giovanna, lasciamo stare che è una, vabbè, è una meraviglia. No, la mia riflessione, vabbè, la mia riflessione era che mettendolo sotto un sillogismo, quindi la conseguenza inesorabile è che tutte le canzoni che canterà lei saranno bellissime come lei, meravigliose, quindi... Non c'è altro da aggiungere, insomma, direi. Aiuto, non so più, mi nascondo dietro al microfono, ragazzi. Grazie. No, ma Eva, per te questo ed altro, veramente. Secondo me sei una grandissima persona, quindi meriti tutto il successo che hai e che sicuramente continuerai ad avere e che accrescerai ulteriormente. Ha detto che ti promuove quest'anno, va bene? E quindi, dai. Giovanna, noi ti ringraziamo. No, e ringrazio io voi che mi avete dato questa occasione anche per salutare Eva. Certo. Spero di rivederla presto. Grazie della complicità che mi hai dato. Mamma mia, che sorpresa! Un abbraccio, Giovanna. Un saluto anche da Riccardo. Grazie, anche a lui. Ok, un bacione grande. Grazie. Ciao Giovanna, grazie ancora. Ciao. Allora, era una tua allieva in pratica, insomma, questa. Sì. Io l'ho scoperto guardando sulla tua pagina Facebook. Ma io questa cosa non me l'aspettavo. L'ho contattata, lei è stata tutto disponibilissima. È una ragazza veramente simpaticissima e soprattutto molto, molto disponibile. Mi ha dato subito l'ok e infatti ho voluto farti questo piccolo regalo. Ma guarda, non me l'aspettavo. Ma quando ho sentito anche il nome, io al momento non l'ho neanche riconosciuta, per cui ero qui che dicevo come poi dopo sì, poi l'ho riconosciuta. Certo. Una domanda a Daniele: tu hai vinto, hai preso 3 featuring dalla rivista americana Guitar Play Magazine. Spieghiamo ai nostri ascoltatori cosa sono i featuring. Allora, una piccola premessa: Guitar Play Magazine è la rivista che è nata nel 1967, che ha dato l'impronta a tutte le riviste tecniche di chitarra. Un po' è come fosse la Bibbia, perché è come Rolling Stone per le rockstar. Esattamente. È la stessa cosa. E nel 2008, tramite MySpace, il direttore Mike Molenda mi ha contattato, ha ascoltato un mio brano e ne ha fatto la recensione, viene trasmesso su una radio web, è stato premiato e da lì è partita questa cosa ed è partito il contatto con questi personaggi incredibili. E poi è successo che proprio quest'anno, nel 2010, sul numero di ottobre, in una rubrica che si chiama The Quick Licks, che sono le frasi veloci, è una rubrica di mini lezioni dove loro pubblicano lezioni preparate da loro, tra cui ci sono lezioni di Judd Gold, il direttore del GT di Los Angeles, però lasciano spazio anche ai lettori, e cosa che succede raramente comunque per un italiano, hanno pubblicato una mia mini lezione che termina con proprio il tizio parla in italiano anche molto molto bene, termina con bravo ragazzo, intitolata Italian Racing. E poi a novembre c'è stata questa colonna tecnica dove hanno chiesto di spiegare la mia strumentazione. Per un italiano è un grandissimo onore e io sono fierissimo, ancora non mi rendo conto bene di questa cosa come è successa, però 3 volte su questa rivista, insomma, credo che mi stiano aspettando. Quando avrò terminato di registrare il mio album, poi lo spedirò e poi sicuramente ci sarà il viaggio da fare. Gli States. Esatto, invece del viaggio in India per trovare se stessi farò. E poi ti aspettiamo qui poi. ti aspettiamo, ci aspettiamo qui col disco nuovo. Sicuramente. Mi fai quella cosina per me, per Maurizio, per noi? Ah, la mia versione. Sì. Vabbè, perché sul mio MySpace esiste una versione di Smoke on the Water che voi sapete che è la classica. Che io ho rivisto così. Latino, poi vabbè, sopra la canto anche, ma no, non è il caso di sentirmi questa sera. E perché no? Perché no? Facciamo sentire anche la voce. Facciamo un flash, dai. Facciamo un flash, dai. Forza. We all came down to Montreux on the lame Geneva shoreline. Records with the mobile, we didn't have much time. Frank Zappa and the mother were the best place around. My son stupid with the flag on, burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. Grande, bravissimo. Grande Daniele. Quante chitarre sono state comprate con Smoke on the Water? Sì, sai che in alcuni negozi negli Stati Uniti ci sono cartelli dove è proibito suonare Smoke on the Water. Esattamente. Sono stato esattamente, bellissimo. Facciamo okay. Ascoltare invece qualcosa della voce di Eva Simontacchi. Cosa hai scelto, Eva? Allora, potremmo proporre Fever. Ah, bellissimo. Che così è un brano che magari... Senza tempo, possiamo dire questo. È un evergreen. Ma fai dal vivo allora? La facciamo ascoltare dal vivo? Sì. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo, he loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kisseth, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill her, he said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Oh, daddy, won't you treat him right?" Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were gonna give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever till you live and learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. Beh, brava, bravissima, c'è niente da dire, bravissima. Adesso avete capito perché quando io dicevo su Facebook che scrivevo spesso e volentieri una delle più belle voci della musica italiana, avete avuto la prova in questo momento. Mamma mia, ma stasera Eva, sei bravissima. Come esco di qua, ragazzi? Sto ma poi devi pagare. Complimenti da Giovanna, da Susi, da Agostino, insomma da tutti. Io non lo so, esco più alta di 20 centimetri. Senti, no? Rischiamo beviti un goccio di acqua adesso, sei già calda. Ci fai un'altra canzone subito, così sì, via. Sì, cosa allora vediamo. Fai quella che avevamo detto prima, quella di che piace a Maurizio. Hai voglia di regalargliela? Mamma no. Mia, vuoi? Sì. Facciamo una sì. Cosa così folle. Facciamo questa cosa folle. Va bene. Allora c'era una. Anche una... perché, scusa, ti interrompo. Anche perché noi siamo definiti come radio che fa abbastanza musica rock. Questa è il simbolo della musica rock in generale. È una delle canzoni rock più famose al mondo, se non anzi la più famosa. Fatta da te, io l'ho sentita prima mentre la provavi, veramente avevo la pelle d'oca. E Maurizio poi non ne parliamo perché per lui è la canzone top. Beh, insomma, merito di Daniele. E di tu, tutti e due. Tutti comunque, e due. Ci tengo a dire che la ceniamo. Va bene. Perché non è che l'avessimo preparata, è stata una sorpresa. Anzi, sono qui con i testi in mano perché rischio di... La cantavo quando ero ragazza, qualche annetto fa, pochi, pochissimi, ma pochi. Proviamo a farla? Proviamo. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Hey. E questo è un assaggino, non l'avevamo preparata, per cui non l'abbiamo neanche provata. Queste sono reminiscenze della mia gioventù, che ho fatto un periodo da rocchettara, lo devo ammettere, perché ovviamente credo che tutti passiamo il nostro momento. Ricordiamo il titolo di questa canzone per chi non l'avesse capito: Stairway to Heaven. Ecco, delle Zeppelin. Un mito, un mito. E l'album Le Zeppelin IV scende, è l'album del mistero. È una meraviglia questo pezzo. Non c'è Bonzo, non c'è Bonzo se la finale. La prossima volta. Dimmi. La preparo bene e canto anche la parte del finale tutta basta che Daniele ti segua. Sì, la canto tutta, perché mi piaceva cantare tutta il finale, bello certo. Tirato, ragazzi. Daniele sostituisce Bonzo nella parte finale, quindi è via. Ok, grande Bonzo Bonham dei Led Zeppelin. Pezzo meraviglioso, e tu l'hai fatto con la tua sensibilità, e quello è importante. È un'emozione unica, esattamente, perché ogni pezzo ha una propria sensibilità. Questo è un pezzo favoloso, però fatta da te ha un suo modo di fare, di interpretare. L'interpretazione è fondamentale. Interpretare Stairway to Heaven non è facile, è difficile, secondo me. Perché i classici, i miti, toccare i miti, sai, è sempre pericoloso. È molto pericoloso, vero? Sì. Sì, però se è ci molto sono... pericoloso. Ma però... se in te non ci sono problemi. Ma non lo so, cioè può... Ovviamente poi di solito è cantata da una voce maschile, certo. Ci sono tante, però questo ha fatto parte proprio, questo è un pezzo che non dimenticherò mai nella mia vita. Ma nessuno lo dimentica. L'ho cantato, l'ho ascoltato, per cui mi è rimasto dentro. Ecco. Credo che sia la prima volta, io parlo per il sottoscritto in questo momento, di averla ascoltata da una parte, da una cantante, da una donna, insomma, da una voce femminile. No, e poi da una cantante jazz. E da una cantante jazz. Non l'ho mai sentita cantata da una voce non maschile, insomma. A proposito del tuo disco, c'è una presentazione e tu citi questa grandissima artista che è Sheila Jordan. Sì. Oggi è il suo compleanno. Oggi è il suo compleanno, per cui facciamo tanti tanti auguri a Sheila Jordan. E che combinazione, parliamo di lei proprio oggi che è il suo compleanno. È una grandissima amica, ma magari ci sta ascoltando. È una grande donna, ma se non ci sta ascoltando, io comunque farò in modo che riceva la trasmissione negli Stati Uniti, a New York, dove lei abita, la sento spesso. È una, intanto una grandissima cantante e poi una grande donna che io prendo ad esempio. Adesso ha 84 anni compiuti oggi, va in giro, fa tournée, canta, spacca, posso dirlo, spacca veramente quando è sul palco, è una meraviglia, per cui io le voglio veramente, la prendo come esempio. Vorrei è una donna di grande umiltà, sì, è di una grande, è una signora del genere, cioè a parte che è quando cammina in giro, va in giro, ha un'aura, porta con sé un'aura di eleganza, di è molto hip, come dicono gli americani, no? Pur avendo quest'età, insomma, è una donna meravigliosa. E lei mi ha trasmesso tantissime cose, non ultimo degli insegnamenti proprio di vita. Ecco, io l'ho intervistata, è una cara amica, ma comunque mi ha rilasciato un'intervista molto particolare che è pubblicata su Jazz Italia, in cui parla della sua vita e parla... di cose anche molto personali mm-hmm. ma che ha deciso di dare di far conoscere i lettori, far conoscere ai lettori, al suo pubblico, perché sono cose molto importanti che possono essere d'esempio, perché lei ha avuto esperienze di droga e di altro, è riuscita ad uscirne. E lei in questa intervista dice che assolutamente quando i cantanti o i musicisti si sentono frustrati, a volte si rivolgono diciamo a queste aiuti. Io non lo chiamerei aiuto, ma direi insomma comunque ci si fa del male, ecco, per cui lei ha esortato nella sua intervista e ha detto a chiare lettere che questo non risolve il problema, anzi ti fa perdere la musica che hai, cioè alla fine ti sembra di riuscire a rendere meglio, a fare meglio, e invece non è così. Per cui veramente una grande donna, un grande esempio, una grande umiltà anche nel raccontare queste cose, per cui ha fatto, secondo me ha fatto la cosa giusta, perché ha fatto bene a parlare di quello che è stato un suo problema, per aiutare le generazioni comunque, che non è che sia cambiato molto da allora ad adesso, perché comunque anche adesso c'è, purtroppo c'è un abuso di tante sostanze anche nel mondo proprio della musica, no? Per cui è un peccato perché non ti regalano musica nuova, ti tolgono molto di quello che hai. Certamente. Ok, cosa dici, Eva? Facciamo sentire un pezzo dal disco adesso? Sì, volentieri. E che traccia hai scelto praticamente? Ma forse potremmo mettere la numero 3, che la numero 6, I Remember You, che è un brano di Johnny Mercer. Sì, focalizziamo un momento il discorso dei messeriani, cioè di Johnny Mercer. Beh, lui ha scritto tantissimi brani, tra parentesi molto belli, e combinazione io nel mio disco ne ho scelti due pezzi. Sì, che sono esattamente I Remember You e I Thought About You, che è stata cantata anche da The Beat Holiday e anche da Frank Sinatra. Sì, sì, li ho scelti perché comunque non ho fatto proprio un discorso di autore, a dir la verità. Io in questo disco ho scelto i brani che in assoluto mi piacevano di più. Ecco, quelli che avrei voluto cantare nel mio disco. E devo dire che Lush Life, che è un pezzo molto difficile, ma anche, diciamo, come ascolto, no, per i jazzisti è un bel pezzo, cioè per chi lo conosce, però a volte per un orecchio che magari non è abituato, è una ballad, io la trovo meravigliosa. Magari dopo mettiamo anche Lush Life, che è un pezzo che nel disco ho cantato piano e voce, è una ballad, che vuol dire un pezzo lento. Cioè, no? Se vuoi l'ascoltiamo anche subito, scegli tu, per me ma cioè... proviamo a mettere Lush Life allora. Perfetto. Mettiamo questa ballad, che è numero 4. Ok. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces. That used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is is awful again. A truffle of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small. The rest of those whose lives are lonely too. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio sera. Blu Radio sera. Sono quasi le 22 di questo giovedì 18 novembre 2010. Questa è sempre la pur conosciuta ormai Eva Simontacchi, che ci sta facendo compagnia fino alle 22.30 qui a Blu Radio Veneto, con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara a condurre questo incontro, questa chiacchierata tra amici. E con Daniele Bonadei e con Susi Dal Gesso, di cui posso dirlo, posso fare la spia? Certo. I jingle che sentite, ho riconosciuto la voce, sono proprio suoi, sono quelli di Susi. Ma pensati, oddio, che non mi ero riconosciuta nemmeno io. Dopo un po' dicevo, ma senti, questa mi pare di... Ah, sono io, ah, ecco. No, perché sai, i jingle si registrano nei vari studi, qualcuno addirittura ne produco nel mio studio e poi li do fuori nel mercato, però non è che poi li riascolti, no. Passano gli anni e nel frattempo dici, ah, ma questo ero io, me ne accorgo quando sono all'acqua e sapone, ai supermercati, che ogni tanto sento, dico, ah, ma questo sono io, ah, però non mi ricordavo di aver fatto questa cosa, succede. Ah, l'acqua e sapone è un supermercato? Ah, sì. Sì, sì, sì. Ah, ecco, infatti io mi chiedevo cosa vuol dire essere all'acqua e sapone. Da noi vuol dire essere stuccati. Da noi stiamo facendo pubblicità occulta. Occulta, vabbè, ci facciamo dare una percentuale sulle vendite. Perché no? Infatti, invece da noi vuol dire essere stuccati. Vicino. No, da noi vicino. È il nome di una catena di centro detersivi varie, profumeria. Certamente, dobbiamo ringraziare un momento il nostro staff, oltre ad Agostino che è in regia, c'è anche la Chiara che fa la fotografia stasera. Grazie Chiara. E il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, che anche lui organizza tutte le trasmissioni. E ricordiamo che va in onda tra mezz'ora circa con col suo programma, con la sua classifica di musica rock fino alle 24, Alberto Prisco. Allora, adesso abbiamo deciso, fortissimamente abbiamo deciso, di far sentire un altro pezzo, perché il discorso del crossover, che è interessante, l'idea del crossover, com'è nata, Eva? E poi sentiamo il pezzo che avete deciso. Allora, com'è nata? Adesso vi racconto la storia mia e di Daniele Bonadei. Allora, parecchi anni fa, una decina, credo, eravamo colleghi in una scuola. Lui insegnava in quest'aula e io in quella di fianco. Lui insegnava chitarra e io insegnavo canto. Ogni tanto ci capitava di avere l'ora buca, mi mancava una allieva perché aveva l'influenza, oppure mancava lui perché anche raramente succedeva, però quando succedeva ci trovavamo a suonare insieme. Entrava nella mia aula o viceversa e facevamo questo crossover, magari mi diceva, ma senti, cos'è che... Allora provavamo a fare un pezzo jazz suonato come lo suonava Daniele, no? Daniele, certo. E insomma non mi dispiaceva questa cosa. E poi a distanza di qualche anno c'era venuta l'idea di provare a creare un progettino così, no? Infatti abbiamo cominciato a lavorarci e è venuta fuori una cosa interessante, a me piace, e per cui andiamo avanti. Poi è molto molto bello questo progetto anche con le percussioni, per cui con dei colori che si vanno ad aggiungere. Secondo me questo progetto, o così com'è o comunque con un percussionista che mette colori di vario tipo e mette anche una ritmica, è bello, perché l'abbiamo portato in giro, sì, due o tre anni fa. sì, due o tre anni fa. Benissimo. Allora, facciamo ascoltare qualcosa? Beh, possiamo far ascoltare un Bésame Mucho. Allora facciamo ascoltare qualcosa dal vivo, quindi in acustico, sì. Eva Simontacchi. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Miedo a perderte después. Tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Che atmosfera qui. We've got shivers. Complimenti a Daniele e a Eva, ovviamente. Ci state regalando un'emozione continua. Ma grazie a voi. Abbiamo parlato con Maurizio adesso, state qua fino a domani mattina a cantare. Ah, sì. Abbiamo preso già i panini, le bibite e tutto. Una cosa che i nostri ascoltatori forse avranno notato, anche i telespettatori, perché visto le telecamere sono accese, e Susi l'ha notato, Eva ha dato i tempi precisi a Daniele. Ha dato i tempi precisi a Daniele e lui si fermava, continuava con i tempi di Eva. Questo è importantissimo. Sì, perché andando loro live senza aver preparato, lei seguiva la vibrazione del suo cuore, però non avendo preparato doveva trasmettere e far capire a lui come vibrare all'unisono, perché certo, non sarebbe stata una bella realizzazione senza l'intervento di entrambe. Però, come ti dicevo prima, siccome lei l'ha fatto alla maniera jazz, è il cantante che dà i dettami anche del tipo di vibrazione. L'hai sentita al finale, questo straight tone, questa nota lunghissima, leggera, sfumata, cioè sei una grande, amore. Sì, guarda, detto da una voce come la tua, che veramente... Ma io dico sempre quello che penso. Non so se poi dia fastidio o meno. No, ma no, è giusto. No, anzi, guarda, cosa vuoi che ti dica? A me, insomma, io mi sento molto onorata. Ma è bello anche come lui... Ecco, devo dire che comunque Daniele ha le antenne, perché è un musicista che ascolta. Ovviamente, se io desidero mettere uno stop in un certo punto, devo fargli un segnalino. Perché va bene che ha le antenne, va bene che ascolta, però non può immaginarsi che io desideri fermare il tempo in un certo punto perché ho voglia di mettere una pausa espressiva e ripartire magari con un... Ma è stato quasi automatico. Sì, no, era bellissimo. Ma io gli ho fatto un gesto, lui ha capito. Capito, certo. Subito, succede sempre. La cosa bella è che possiamo fare 10 volte lo stesso brano e in 10 maniere diverse. Ecco, quello è importante. Fondamentale. Sì, sì, basta un gesto. Poi in questo momento non possiamo neanche tanto guardarci, perché guardiamo tutte e due nella stessa direzione. Io davanti al microfono, paralleli. Lui anche, per cui non c'è modo di guardarci molto negli occhi, per cui faccio il gestino con la mano e lui vede la mano che arriva, capisce al volo. Io, leggendo nella tua storia, nelle tue interviste che hai rilasciato un po' in giro, ho scoperto che abbiamo una canzone in comune io e te, ed è quella che abbiamo ascoltato in auto pochi minuti fa, che ti piace e non hai mai cantato, hai detto. Sì. Come mai questo gusto, questo piacere in questa canzone, e come mai non l'hai mai cantata? Diciamo che canzone è. Sì. È Smile di quella. Allora, diciamo che non l'ho mai registrata. Ah, ma l'hai cantata. Però sì, mi piace tantissimo Smile. E posso dire una cosa? Certo. In primavera vado a New York a registrare un disco, mm-hmm, e Smile è uno dei pezzi che canterò nel nuovo disco. Questa è una chicca, sì, è una di notizia. Di solito non mi piace dire delle cose in anteprima, però visto che mi hai chiesto proprio di questo pezzo, ti devo dire che per me è un brano meraviglioso e mi dà delle bellissime vibrazioni. Io penso che il mondo in questo momento abbia bisogno di trovare positività, perché ci sono tante situazioni molto difficili, tante sono le persone che a volte sono in bilico, sono proprio in bilico, hanno magari fanno fatica, fanno molta fatica, per cui io trovo che la musica assolutamente debba dare una mano in questo momento, e questa è la missione che io sento dentro di me. E mentre prima appunto dicevamo che non potrei mai cantare canzoni che non mi assomigliano o testi che non mi assomigliano, o che comunque in qualche modo non hanno fatto parte di me, perché io prima ho cantato Stairway to Heaven, no? Certo. Però io lo sento come una cosa mia. Certo. Certo, veramente, sì. Perché io da giovanissima questo pezzo lo sentivo mio, e io non rinnego la mia giovinezza, sono sempre io, sono maturata, sono andata avanti, ma fa parte di me, ecco. Per cui, però, in questo momento ciò a cui punto moltissimo è proprio una ricerca spirituale, una ricerca non della positività a tutti i costi e non del buonismo a tutti i costi, non sto cercando quello, assolutamente, per cui non la cosina, non so come spiegarmi meglio di così. Io sto cercando una cosa che abbia profondità, che abbia spessore, ma che sia nello stesso tempo semplice, alla portata di tutti, per cui non discorsi filosofici astrusi, e nemmeno frasi fatte, dette con buonismo, con no. Sto cercando qualcosa di vero, di autentico. E tra i tuoi valori c'è l'amore, il rispetto, la sincerità, leggevo appunto, la sì, lealtà. Sì, sì, per me sono cose molto importanti. Sì, la bellezza, ma io ho un concetto della bellezza che è come quello dei bambini, no? I bambini a volte dicono... che bella, no, quella persona, e magari un altro dice beh, insomma, no, però perché i bambini sanno vedere la vera bellezza di una persona, perché ecco. Parlano con il loro cuore, senza maschere, senza veli, sì, quello che sentono. Loro sentono l'amore e l'attenzione che una persona regala loro, no? Per cui per me questo fa parte della bellezza, ecco, la bellezza anche in questo senso. Poi, insomma, viviamo nel mondo in cui viviamo e abbiamo tutti quanti i nostri difetti, e nessuno è perfetto, però diciamo che la mia ricerca va in quel senso. I tuoi pregi, i tuoi difetti? Oh santo cielo, non so, allora... Sei quello della notte, sì. Quello, quello che fa, si faccia una domanda. Sì, sì. I miei pregi e i miei difetti. No, allora, cerchiamo di conoscere un po' Eva, insomma. Allora... I miei difetti possono essere quelli che, dato che sono una persona che tende a organizzare, a fare, ho le idee sempre molto chiare, magari potrei dar fastidio a qualcuno perché potrei sembrare un po' una comandina, ecco, cioè... che dico sono organizzativa, dico a volte alle persone cosa fare, e a volte magari qualcuno potrebbe scocciarsi, ecco, questo potrebbe essere un difetto, però potrebbe essere anche un pregio, perché mi organizzo, so organizzarmi bene. Pregi, poi posso dire un'altra cosa che può essere un pregio e un difetto. Come persona sono generosa, per cui molto spesso dagli amici mi sono sentita dire che devo smetterla, perché a volte ci sono un sacco di persone che se ne approfittano. Beh, quello è un classico. Allora sai, da una parte, che cos'è questo? È un pregio, un difetto? Io tutte le volte dico va bene, adesso mi correggo, cioè, come può uno, se uno è così d'animo, non può cambiare carattere. Non è poi che possa cambiare completamente, insomma, certo. Per cui allora abbiamo 14 minuti. Facciamo suoniamo due live. Facciamo due live. Vuoi ascoltare qualcosa dal disco? Come vuoi, Eva. Come vuoi tu, Eva? Ci facciamo un'altra suonata, dai. Un'altra suonatina, certo. Sì. Guarda che poi ci salutiamo con una suonatina, comunque. Ricordiamo nel frattempo che Eva sta cercando cosa farci ascoltare, che questa è la vostra emittente preferita, almeno per quanto mi riguarda in questo preciso momento, nel senso che state ascoltando Blu Radio Veneto. Siamo nelle frequenze da 188 e 700 e 94 e 600, e abbiamo il nostro sito www.bluradioveneto.it, abbiamo anche su Facebook la nostra pagina. E abbiamo anche un'altra seconda pagina, sempre su Facebook, cioè Blu Radio Veneto Rock Wave, che appunto dove lì potete ascoltare specialmente le notizie, le novità della musica rock. Sei pronta? Sì, eseguiremo Misty. Misty? Sì. Di chi è? Guarda, in questo momento mi fai una domanda. Tra bocchetto. Io non sono sicura, Susi, dovrei guardare nei miei spartiti. Ce l'ascoltiamo intanto, dai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in you would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. I'm too misty and too much in love. Che finale, che finale. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Complimenti, bravissimo. Eva, sei qualcosa di... Settima nona mi finisci. Oh, grande. Cosa vuol dire in settima nona? C'è anche l'undicesima diesis. Esatto. No, sai, i musicisti sentono subito la sospensione delle armonie americane. Ok. Ecco. Allora, dovrebbe essersi trattato di un pezzo di Errol Garner. Non sono sicurissima, però consultandomi con Susi, perché... ho in mente 3.000 autori e non vorrei far figuracce in questo momento, perché Misty è un pezzo che ho cantato canto da tantissimo tempo, ho in mente 3 miliardi di brani e purtroppo in questo momento ho un vuoto di memoria. Non sono sicura, però dovrebbe essere Errol Garner, me l'ha appunto passato Susi. Guarda, in questi ultimi minuti ti lascio come sottofondo la tua canzone preferita, va bene? In the sky you get. Ok, questo è Michael Jackson. Eh sì, sì, certo, Michael. Meraviglia. Jackson. Allora, ricordiamo dove si trova il disco, Eva. Il mio disco. E il tuo disco, sì, il tuo sito, allora, musicisti, beh, eccetera. Il mio sito è www.evasimontacchi.com. Il disco è della Splash Records. E vabbè, digitando in Google Pure Ecstasy, o mettendo il mio nome, Eva Simontacchi, ci sono vari siti che lo vendono. E cos'altro posso dire? Io ringrazio tutti voi, ringrazio Daniele Bonadei, ringrazio Susi Dal Gesso, che è stata una grandiosa amica, e insomma voi che mi avete fatto la sorpresa di trovarmela qui, e ringrazio tutti voi. Grazie. Grazie mille per avermi dato questa bellissima opportunità. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno ascoltato. Noi ringraziamo te che ci hai dato questa opportunità, quello importante. Io mi permetto di dire una cosa da amica, da persona che ti ama, e penso che tu abbia trasmesso questa sera una grandissima umiltà, un grande amore per il canto, per la vita, e che quello che tu sei non è un personaggio costruito, sei una persona che ha fatto tantissime esperienze, appunto rock, dance, e tante, per poi donare il suo cuore al jazz. Sì. E quindi la sua vibrazione è, che è una vibrazione, la cosa che più mi è piaciuta di te stasera, adesso io penso di essere in questo momento un'ascoltatrice che ti ascolta per la prima volta, nel tuo modo di esporti e nel quello che trasmetti dai molta serenità, molta pace, e tu dicevi c'è bisogno di pace, c'è bisogno di amore. Sì. Allora l'augurio che io faccio a te, da collega, da amica, da persona che ti ama, che veramente con tanto affetto, è di continuare con questa missione, perché abbiamo bisogno di te. Ti sei commossa? Un po'. Susi, sei andata troppo. È il mio guaio, quando parlo parte il cuore e via. Però sottolineo e sottoscrivo quello che hai detto di Eva. Insomma, io ho avuto, ti ripeto, come dicevo prima, ho avuto modo di scoprirla in questi giorni, ci siamo sentiti tantissime volte al telefono e non ho mai smesso di volergli bene, proprio perché ha queste caratteristiche lei, insomma, e si merita di avere il successo che deve avere. Terminiamo con un live. Terminiamo con un live. Eva, un okay. Grande live come abbiamo fatto questa sera. A vostro piacimento, il pezzo che volete voi. E aspettiamo Eva con il nuovo disco, quello che sarà in uscita in primavera, se non sbaglio. Che chicchetta che ci ha dato stasera, ci fa morire fino alla primavera, ci fa aspettare. Però Eva ti aspettiamo qui di nuovo, va bene? Sei pronta? Grazie, sì, mi è tornata la voce. Bene, allora noi vi salutiamo, Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara afono stasera, ma insomma comunque pur sempre lui. E vi diamo appuntamento a giovedì della settimana prossima, sempre alle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto, con l'intervista ai Summertime, che verranno a presentarci il loro concerto che terranno l'8 di dicembre qui a Padova. E quindi l'appuntamento è a giovedì prossimo con questa, quindi parleremo di gospel, quindi ogni sera sarà ogni giovedì sera sarà sempre qualcosa di diverso quando ci sono questi live, questi acustici. Che dire, vi auguro un buon proseguimento di programmi all'ascolto di Blu Radio Veneto, che continuano con Alberto Prisco e la sua musica rock, la sua classifica di musica rock. Ancora un bacio e un grande abbraccio a Eva, un salutone a Daniele, una persona squisitissima che è tu, Daniele. Grazie Agostino. Susi, tu sei di casa, quindi già ti vogliamo bene di per sé, quindi grazie, grazie a voi. Grazie a te Daniele, per essermi intrufolata qui. Grazie, Susi. Vi aspettiamo al prossimo disco, ok? Cosa ci fate sentire adesso? Abbiamo pensato di fare Route 66, così dato che per Daniele il blues è il blues, anche a me piace, certo. E poi chiudiamo così un po' allegramente. E così introduciamo il programma successivo. Di Alberto. Okay, esatto. Alberto. Qualcosa di movimentato. Ok. Ciao ciao. If you ever plan to motor west, I travel my way. Take the highway, that's the best. So get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino, won't you get it by this time, Lee? So get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route this timely tip. When you make that California trip, so get your kicks on Route 66. I said, I get your kicks on Route 66. I said, get your kicks on Route 66.